Una buona serata da parte di Max Macchia per 451 frammenti sonori sulle onde di Radio Città Fujiko. Beh, un saluto, come dire, un po' rincoglionito, visto che sì, è il classico rincoglionimento perlomeno del sottoscritto primaverile, forse sia anche quello invernale, ma quello, come dire, viene un po' così distolto da quello che è appunto il freddo invernale, quello che è stato poi d'altronde bolognese, per non parlare insomma dei freddi e delle glaciazioni politiche che viviamo, ma insomma, per molti aspetti discorsi diversi, per altrettanti invece discorsi che possono andare in parallelo e ogni tanto anche si incrociano, ma senza fare insomma divagazioni climatiche in termini anche appunto non soltanto climatici, strettamente climatici, ma anche appunto di clima invece più generale e sui generis. Andiamo dentro 451 di questa sera, di questa notte, o appunto di quando lo state ascoltando su 451 frammentisonori.noblogs.org. Incanti, 451 incanti, non che siano contati su quelli, ma che di certo vanno a intersecarsi con i frammenti appunto che si curano da queste parti da qualche anno a questa parte. Che cos'è l'incanto? L'incanto può essere quello delle sirene, poi per certi versi ci arriveremo anche alla fine di questa prima ora, poi vedremo insomma se ci sarà anche modo di farne una seconda, o se di farci incantare o disincantare, perché no, nel prossimo 451. L'incanto può essere anche il appunto, forse in maniera così più prosastica, prosaica, semplicemente una sorta appunto di così di vaghezza e di così, come dicevo prima, rincoglionimento primaverile, se vogliamo metterla in maniera appunto molto più quotidiano, stagionale, ecco, per essere più precisi. E l'incanto, sono le musiche che da molti anni a questa parte, ma probabilmente da sempre, dalle musiche delle sfere, e quindi partendo insomma da tempi remoti, arrivano fino ai nostri giorni gli incanti delle musiche di certo post-minimalismo che ascolteremo, di certo suono ambientale, di un suono che prendendo da forme molto quintomondiste, potremmo dire, o quartomondiste, per rifarci a John Husserl, quindi una world music che non può essere tale, proprio perché l'Occidente e le musiche dell'Occidente per molti versi hanno se non addirittura colonizzato, comunque innervato per tanti versi anche le musiche del resto del mondo, quindi musiche che ovviamente non ovviamente, comunque con un processo storico anche piuttosto breve, se pensiamo alla storia insomma appunto partendo dalla musica delle sfere, e se lo pensiamo invece come un eterno oggi, eterna attualità che per molti versi ci incastra da un po' di anni a questa parte con retromanie annesse, beh allora sono veramente tanti gli anni dell'utopia, quindi anche della fuga per tanti versi, oppure nella ricerca di quello che poteva essere considerato, e per tanti versi può essere ancora, non soltanto in maniera retromaniaca, ma anche come possibilità nuova data per certi versi dall'utopia, ma anche da un riflettere poi in una maniera insomma più così terrestre su quello che sono state e che possono essere ancora musiche che per molti versi inventando e reinventando le musiche del mondo, poi diventano un altro, una sorta di ponte anche verso una musica futuribile, un po' quello che stasera faremo insomma in questa ora con 451 incanti. E se dovessimo così iniziare, lo facciamo tra l'altro con un disco che per tanti versi è stato ritrovato, proprio stampato da pochi mesi, un disco di una sorta di new ager, potremmo dire, spagnolo, Pep Lopez, che farà dischi dalla metà degli anni Ottanta, più o meno, insomma, con una cadenza annuale per i primi periodi, e poi si disperderà insomma nei primi anni 90 con insomma altri progetti non più legati strettamente alla musica. Se pensiamo, e potremmo anche a questo punto creare un altro ponte, che è quello dell'odiernità, della ristampa, ma in termini appunto di riflessione su delle musiche, quindi, che vogliono essere recuperate soprattutto come attitudine, e oltre che di bellezza, insomma, piuttosto foriera, ecco, quella di Bep Lopez, appunto ricavando da questa sorta di sperimentatore, e con forse poca inquietudine, ecco, più così disegni che ci portano verso lande se vogliamo molto liquide, ecco, se vogliamo pensare insomma una postmodernità che comunque non perdeva quello che era un aspetto, anzi per molti versi riusciva quasi a integrare in maniera appunto molto originale quell'aspetto appunto di suono, se vogliamo anche ancestrale, ecco, una sorta di melodia che va a creare una forma insomma molto poetica, anche incantata appunto del progetto dello spagnolo Pep Lopez. E viene ristampato appunto da pochi mesi, perché gente come Holly Ordon, per citarne una, ma anche personaggi che si muovono dentro questo ripensamento, se vogliamo, delle musiche ambientali barra New Age e quarto mondista, appunto prima di John Hassell, ma appunto poi diventate quinto mondista a questo punto, no? Con una sorta insomma di evoluzione quasi impossibile, ma che forse può disegnare quello che può essere un futuro, che appunto si nutre anche di specchi, e perché no, anche in una certa qual misura anche di una forma dialettica, con lavori che, se vogliamo, vengono ora storicizzati e quindi assurgono a quello che è un percorso comunque decisamente importante per le musiche, soprattutto per quelle attuali, per quanto insomma la musica chiaramente di questi giorni abbia un valore non di certo importante come invece il 1986-87, quando usciva appunto il primo disco di Pep Lopez, Polemusia, La Nau dels Argonautes, con lo spagnolo un po' così, insomma, un po' italianizzato, fatemelo passare, come tutte le lingue d'altronde da queste parti. Pep Lopez per questi 451 incanti. Travessaré florestes i ascendiré muntanyes sagrades de granit. Moriré amb l'enyorança de no ser un jaguar. Que grans són els deserts, si tot és un desert. Thank you. Gran disco quello di Pepe Lopez, scoperto veramente nell'ultimissimo periodo, da dopo anni che potremmo dire di riscoperta di musiche che per tanti versi erano finiti in una sorta di cestino, di pattumiera storica, visti e non più ascoltati probabilmente come semplice album di New Age, quella insomma, e più trita e ritrita, che tra l'altro insomma fece piuttosto male anche a molte musiche che invece furono considerate appunto tali dentro il calderone, insomma, anche perché negli anni '80 vendeva come la New Age, una nicchia, ma una nicchia che tirava fuori anche un bel po' di quattrini legati anche insomma, a dischi che appunto hanno sul serio lasciato il tempo che hanno trovato, e addirittura hanno appunto coperto invece piccoli gioielli come questo di Pepe Lopez. Quindi per dire anche che non è che siccome c'è una cosa può esistere anche un'altra cosa, no, quella cosa commerciale copre magari un'altra cosa, quindi in questo senso qua l'operazione, se vogliamo, è anche appunto molto sui generis, però è anche politica, senz'altro di politiche musicali anche atte a riscoprire e a ritrovare anche percorsi che sembravano decisamente smarriti, come chiedersi come mai immaginazioni successive e immediatamente successive a tecnopop e alle musiche elettroniche dei primissimi anni '80 poi siano svanite quasi nel nulla, sembrerebbe, alla fine degli anni '80. O un immaginario insomma come quello di Blade Runner dell'82, da lì a pochissimo si trasformerà in una sorta, per lo stesso anche tra l'altro Ridley Scott, e una sorta anche di appunto fantasy così molto portata di famiglia e insomma natalizio, quanto basta, ecco, per vendere anche prodotti che tra virgolette insomma necessitavano qualche tempo prima di una fantasia e di uno spostamento anche di immaginari. Ma queste musiche hanno quelle di Pep Lopez, ma quella anche di Midori e Takada, gioiello anch'esso degli anni '80, se Pep Lopez l'abbiamo ritrovato come disco poi Emusia la Now Dels dell'Argonautes nell'87, e Midori Takada lo troviamo invece nell'83, poco prima, anni tra l'altro che erano molto poco avvezzi, se non appunto in quella nicchia, che nicchia non era, ecco, di yuppie, che la sera insomma si yuppie californiani, soprattutto, che la sera si rilassavano appunto con la New Age, e erano anni tendenzialmente ancora legati a quello che il post-punk aveva ricreato sulle macerie del punk, e anni anche fortemente legati a impatti o decisamente pop, quindi molto invasivi in questo senso, ma anche decisamente antagonistici, se pensiamo a molta industrial music appunto dell'80. Quindi sembra veramente fuori da ogni dove musiche come quelle di Pep Lopez e Midori Takada, veramente incantate anche in questo senso, proprio in termini storici, una sorta di incantamento che c'è stato, e ben venga insomma che ci sia stato, visto che poi appunto oltre che a goderne in questi ultimi periodi appunto con le ristampe di questi dischi abbandonati, c'è anche senz'altro una riflessione che poi viene portata in musica, appunto prima citavo Olly Herndon, ma buona parte di quello che è il progetto, ad esempio, Freakways, americani da Lopatin, quindi come Onetrix, Point Never, fino a Aubrey Lowe, veramente molte delle musiche sperimentali di questi ultimi tempi, ovviamente fuori, molto fuori anche dal noise, anche se poi ogni tanto incrociano in maniera, insomma, piuttosto particolare, ma quella è faccenda che questa sera non ci interessa, appunto, dentro gli incanti di questi autori, che tra l'altro tra poco troveranno una grande un grande punto di riferimento noi lo ritroveremo e lo faremo ritrovare anche loro, appunto, lungo la scaletta di questo 451 incanti, e un personaggio che riuscì a illuminare, poi capirete anche perché mi viene da sorridere, appunto, nella sorta di illuminazione che portò anche la grande che ascolteremo dopo, Midori Takada, proprio a creare un grande immaginario sonoro partendo da musiche che sembravano lontanissime da quello che poi ora definiamo, insomma, come ambient, come nuova era, ecco, new age e quant'altro, insomma, si possa, appunto, definire e ridefinire, anche perché, insomma, finalmente forse si può parlare di new age non nei termini, insomma, nel termine che significava, insomma, veramente porcherie su porcherie, anche in termini, insomma, di se vogliamo ideologiche, ecco, per quanto, insomma, volesse essere distante e si dichiarasse anti-ideologica, molta new age, proprio distaccandosi sempre, come dire, rendendo opaca, pastello, insomma, l'idea invece per tanti versi onnicomprensiva che portava, sincretica, che ha portato la New Age anche e a forme insomma di successo anche piuttosto mainstream, poi per alcuni capitoli, insomma, della fine degli anni Ottanta, Enya su tutti, ecco, tanto per citarne uno, ma non siamo, insomma, su quei livelli, anzi siamo tutt'altro livelli, e anche su bisognerebbe, insomma, spiegare dove vengono i clan, eccetera, ma veramente mi fermo qua, perché sennò sì, rischio veramente di andare orizzontalmente più di quanto lo faccia già di consuetudine mia, ma appunto vi faccio sentire questo gioiello di Midori Takada da Through the Looking Glass, come dicevo appunto prima, disco del 1933. Thank you. Midori Takada, percussionista giapponese, che nel 1983 fece uscire questo gioiello riscoperto proprio in questo periodo, True the Looking Glass, dove, ma anche d'altronde in Pepe Lopez, che apriva questi 451 incanti, si sente molto il lavoro di Reich, drumming assolutamente, e anche il primo primissimo John Adams, ma dove appunto sia Pepe Lopez che Midori Takada, forse più quest'ultima rispetto invece allo spagnolo Pepe Lopez, che senz'altro è più melodioso, ecco, Midori Takada rischia seriamente di andare in una sorta di regno incantato di sonorità che forse anche partendo dal suo Giappone, dall'arcaico quanto moderno Giappone, se pensiamo poi all'83, quindi quando il Giappone veramente era punto di riferimento tecnologico a livello mondiale, era la città appunto Tokyo del futuro, poi per molti versi insomma non lo sarà più, però sicuramente all'epoca, e Midori Takada, prendendo quello che è un atteggiamento appunto se vogliamo tecnologico preso da Reich, riesce però appunto a spiegare la tecnologia, perlomeno la composizione in termini di tecnologia avanzata, chiamiamola in questa maniera, ma poi magari in questo senso potremmo anche andare a indagare quanto poi la matematica centrasse anche, la matematica è collegata al tecnologico, non al dato immediato tecnologico, quindi l'utilizzo di strumentazione tecnologica, per fondamentalmente usava appunto delle percussioni Midori Takada, seppur trattate, ma senz'altro questa chiave insomma che vogliamo chiamare appunto tecnologica ci riporta e riesce a far riportare lei, appunto questa straordinaria percussionista, indietro, una sorta di tempo remoto che va quasi a perdersi appunto in termini di riferimento. Questa è la grande la grandezza poi di un lavoro fino a poco tempo fa anch'esso proprio abbandonato ai ricordi di qualcuno che illuminato appunto negli anni Ottanta riusciva anche, come dire, non soltanto ad ascoltare wave radicale, ma anche appunto gioielli di questo tipo. Prima vi parlavo di luci, di illuminazioni, non sono quelle le illuminazioni pubbliche, o forse sì, forse lo sono state anche per un periodo, ma con pubblico potremmo parlare più di collettivo, magari, visto che torniamo indietro di 50 anni fa, quando in realtà soltanto come aggancio, poi andremo invece negli anni 80, ma di una grande artista che nel 1968 fece uscire un disco a nome proprio, Liz Coltrane, insieme al celeberrimo, grandioso, fantastico John Coltrane, marito appunto scomparso poco prima, Cosmic Music, disco anch'esso recuperato, che molti amanti anche del Coltrane più spinto, quello del free jazz, non amavano perché di fatto composizioni che vengono prese da Liz Coltrane, un disco postumo, quindi da Pharoah Sanders, che tra l'altro aveva suonato direttamente proprio nel periodo free di Coltrane dentro la sua band, ma che di fatto insomma porta un po' di dubbi, perlomeno in termini appunto di quella critica che si era anche spostata sul free di John Coltrane, ma che appunto non vedeva di buon occhio quello che quello che era un disco postumo che sembrava potesse essere, insomma, una semplice operazione, se non commerciale, comunque nostalgica da parte, appunto, da parte di Alice Coltrane rispetto alla grande figura del marito con cui, appunto, aveva suonato e con cui aveva iniziato a lavorare. Poi fondamentalmente saranno sovraincisioni quelle di Cosmic Music, che magari prossimamente metteremo, visto, appunto, anche una recentissima ristampa, ma non c'era bisogno, insomma. Il disco di fatto aveva un suo culto, culto però che viene colto soprattutto a distanza di molti anni, quindi oggi di 50 anni, ripeto, disco del 1968, perché oltre che omaggiare a 10 anni dalla morte Alice Coltrane con dei nastri ritrovati di lavori fondamentalmente della fine degli anni 70 e degli anni 80, quando Alice Coltrane è in India e è tuffata dentro un mondo di suoni, di om, potremmo dire, di risonanze statiche, tant'è che, appunto, il disco The Static Music of Alice Coltrane ci riporta anche proprio in termini di titolazione immediatamente a quel periodo importante per Alice Coltrane, ma come sentiremo anche per le musiche che attraversano l'odiernità all'oggi, appunto, che per tanti versi, con tanti di disincanti e di scanti, di fatto poi ritrova in alcuni momenti illuminazioni, appunto, alla Alice Coltrane, tanto per citare un disco storico della Alice Coltrane con Carlos Santana, un disco importante anche in termini, appunto, di immaginario rock che si spostava dentro, appunto, nuovi orizzonti musicali e possibilità date soprattutto poi da Alice Coltrane in termini musicali prima, ma anche, perché no, da certo Santana, vedi, o senti, anzi, per meglio dire, Caravanserai, ma senza, insomma, citare mostri sacri e totem, come dire, del rock più classico, che tanto classico Caravanserai non lo era. Ma andiamo, appunto, a trovarci una Alice Coltrane veramente pregna di illuminazione, e illumina, appunto, il synth di estasi, di una sorta di lascivia che però ci porta se non il mondo dei sensi, poi dopo ci trasporta in un altrove che, appunto, musicalmente è dato in questa maniera. Alice Coltrane, appunto. Ragakula Pushna raga gula boshena haide iramana haide iramana haide iramana haide Kasa yudula la, kasa yudula la, kasa yudula la, ananda verna. Davarna Ananda Varna Ananda Varna Sita Devi Jivana Sita Devi Mohana Asura Nikandana samhällan. Det här samhällan. Det samhällan. Det samhällan. Det samhällan. Det samhällan. Det samhällan. Det samhällan. Ravanan samhällan. Ravanantam agamara Ravanandashaya Ravanandashaya Ravanankashaya Ravanankashaya Ramachandra Balava Rama Baudiriya Ramachandra Balava Rama Baudiriya Ramabhadra Vikrantaha Ramabhadra Vikrantaha Ramabhadra Vikrantaha Ramabhadra Vikrantaha Hare Rama Atma Kalyana Ayo Jalli Lamai Ayo Jalli Lamai, yo jalli lamai, Hare Rama, Atma Kalyana. Liz Coltrane. Recuperati questi nastri tra la fine degli anni 70 e primi anni 80, dove riesce sul serio a illuminare il synth di un percorso eccezionale dentro le musiche più estatiche, e che partono, come accennavo prima, addirittura dal free jazz, appunto, del meraviglioso marito John Coltrane, oltre che, insomma, una figura di riferimento per le musiche, per tutte le musiche del Novecento. E così, concludendo questa prima ora con un altro recupero, quello di Anna Homler, musicista legata alle musiche elettroniche, ma anche all'installazione, le musiche poi che hanno accompagnato anche momenti teatrali, performativi. In questo caso un recupero degli anni Ottanta, anch'esso, insomma, Brad Woman, proprio di questi ultimi mesi, con Steve Mosher, anch'esso dedito, insomma, musiche teatrali, installative e quant'altro. Altro gioiello anche questo del 1985, originariamente edito da Farmacia Poetica, che, insomma, il nome già ci porta, insomma, immaginario per quanto chimico, poi, appunto, anche decisamente poetico, come sono le musiche di Anna Homler. Recupereremo, insomma, poi, tra l'altro, un altro pezzo della Homler proprio nella seconda ora. Io vi rimando al prossimo 451, fate i bravi e ciao da Max Macchia. Oh yes, Steve.